Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. People look at Erasmus and they think, oh, it's just students partying, you know? Just young people having fun. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Andate a dare un'occhiata a questo film documentario Erasmus 24/7, realizzato da tre italiani, Stefano De Marco, Nicolò Falsetti e Alessandro Grespan. Grazie a un crowdfunding hanno raccontato in presa diretta la generazione dei nativi europei in giro per il vecchio continente, da Lisbona fino a Istanbul. Un film indipendente che ci fa capire molto bene cosa sia realmente questa generazione di giovani che considerano l'Europa la propria casa. A proposito di Europa, oggi fate molta attenzione, ritorna Giovani Talenti in Europa, l'unica iniziativa radiofonica che vi porta a Strasburgo in viaggio studio. Anche quest'anno in palio per voi 4 posti, tra poco tutti i dettagli e le istruzioni per partecipare. La frase della settimana è copyright del ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Ci siamo molto seduti sull'orgoglio del nostro patrimonio e abbiamo dimenticato l'investimento sul presente, senza pensare che quel patrimonio è figlio di artisti allora contemporanei e di industrie culturali e creative del secolo. Altri paesi con un patrimonio culturale minore, come il Regno Unito, hanno, ha ricordato Franceschini, investito massicciamente. In Italia non abbiamo investito sui talenti, una sciocchezza totale. Che dire, una presa d'atto. Chi sono i millennials italiani, i giovani nati tra l'82 e il 2004? Secondo l'indagine 2016 Deloitte Millennial Survey, al posto fisso non ci pensano proprio, anzi, 4 su 10 cambierebbero impiego nel prossimo biennio, 1 su 2 nei prossimi 5. Ciò che più li svilisce è non sentirsi parte di un percorso di crescita, lo afferma la metà di loro, e avere scarse possibilità di sviluppare competenze di leadership nel 63% dei casi. Quella stessa crescita, competenza e leadership che vengono concesse in paesi dove si investe davvero sui giovani. Io penso che in questo momento essere un imprenditore in Italia giovane non ha molta credibilità agli occhi dei più grandi. Forse non credono in noi. Nicola Rani, 28 anni, è una stilista e designer a distanza in Gran Bretagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. La fuga di cervelli può causare una perdita netta permanente di capitale umano altamente qualificato a danno della competitività italiana. A medio e lungo termine può compromettere le prospettive di crescita della penisola e anche le sue finanze pubbliche. Lo sostiene il rapporto della Commissione Europea sugli squilibri macroeconomici. Secondo lo studio, il numero di giovani altamente qualificati che emigrano all'estero è cresciuto rapidamente a partire dal 2010 e non è stato compensato da flussi di italiani con pari qualifiche che hanno fatto rientro in patria. Tantomeno, sottolinea il rapporto, si può parlare di scambio di cervelli. Se molti lavoratori italiani altamente qualificati lasciano il paese, solo pochi cittadini di altri paesi dello stesso livello scelgono l'Italia come destinazione. L'aumento di immigrazione italiana, si sottolinea, riflette le migliori opportunità e condizioni di lavoro all'estero. Conferma Manager Italia. Sono solo 8.000 dirigenti e manager stranieri al lavoro nella penisola e il loro numero pare persino destinato a diminuire con le sirene medio orientali e asiatiche che sembrano offrire loro maggiori opportunità. Prospettive di carriera, salari bassi e poca reale voglia di aprirsi all'internazionalizzazione, questi maggiori ostacoli all'integrazione dei manager esteri nella penisola. Torniamo oggi a parlare dell'iniziativa di Francesco Ricca che da gennaio, dopo il suicidio della sorella Luana, già protagonista qui a Giovani Talenti, sta animando un movimento di opinione per chiedere maggiore meritocrazia nel settore sanitario italiano. Oltre 4.000 persone si sono iscritte al gruppo Facebook con e per Luana Ricca e lo stesso Francesco è stato ricevuto al Ministero della Sanità. Con lui facciamo il punto sui primi 2 mesi di battaglia condotta nel nome della sorella. L'iniziativa del gruppo è nata da una necessità, ovvero quella di ricordare Luana, ma contestualmente funge da aggregatore per tante storie, tante difficoltà e tanti disagi incontrati da moltissimi professionisti in Italia o all'estero che hanno provato a rientrare in Italia ma non sono riusciti per via del sistema che non permette a tanti cervelli di poter esprimere il proprio talento e la propria professione nel paese d'origine. In media come si raccontano coloro che interagiscono col gruppo? Molti raccontano le loro storie di disagio, le loro storie di difficoltà, visto e considerato che si trovano di fronte a dover, come si suol dire, ricominciare da zero, specie chi, come mia sorella, era ritornata da un periodo di eccellenza all'estero. molti dei quali rifanno i bagagli e vanno via. Il ministro Lorenzin poco tempo fa mi ha parlato di professionisti che all'estero guadagnano cifre che in Italia non potrebbero mai guadagnare, e chiaramente davanti a una situazione del genere anche il ministro allarga le braccia. Abbiamo incontrato il ministro circa un mese fa, ci ha accolto e ha ascoltato quella che era la storia di Luana, quello che è successo a Luana, ma soprattutto quelle che sono le richieste per un cambiamento radicale. In brevissimo, che proposte di cambiamento avete portato, hai portato al ministro Lorenzin? Soprattutto quello della valutazione, in termini di valutazione dell'accesso alla carriera, non soltanto per anzianità di servizio, ma soprattutto per merito. Quello che si cerca di fare è appunto poter portare avanti un decreto interministeriale che oggi è ancora bloccato tra Ministero dell'Istruzione, quindi il MIUR, e il Ministero della Salute, perché mancano i decreti attuativi. Infine, quando i talenti ritornano, vi ricordate Paola Marinone, giovane startupper in Gran Bretagna, la cui storia vi abbiamo raccontato un mese fa? A suo modo è controesodata, acquisendo MakeTag, giovane azienda sarda. Non è fisicamente rientrata nella penisola, ma ha cominciato a investirvi. Beh, in bocca al lupo! La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta oltre manica, stavolta per addentrarci nel mondo della moda e del design. Nome: Nicole. Cognome: Ragni. Età: 28. Città di origine: Recanati. Studi: Fashion Design, University of Creative Arts. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2008. Per andare dove? Cambridge. Perché? Per studiare l'inglese e per studiare moda. Quale lavoro svolgi attualmente? Ho la mia label. Dove? Londra. Tornerai? No. Nicole, parto dalla fine della email che ha inviato a giovanitalenti@radio24.it. Se i grandi italiani non aiutano i giovani italiani a crescere, non ce la faremo mai, annoti, quasi con rabbia. C'è un problema, ti chiedo, di passaggio generazionale o fiducia tra giovani e anziani, o forse più in generale tra chi ha fermato e chi deve ancora costruirsi una carriera in Italia? Sì, io penso che in questo momento essere un imprenditore in Italia giovane non ha molta credibilità agli occhi dei più grandi. Perché? Perché forse non credono in noi e soprattutto non dedicano il loro tempo a chi è meno esperto e che ha bisogno di più attenzioni. Tra poco spiegheremo anche perché. La moda entra nella tua vita prestissimo con un diploma all'Istituto d'Arte di Macerata, poi decidi di approfondire gli studi oltre manica. Perché scegli la University of Creative Arts in Inghilterra come punto di approdo universitario anziché un istituto italiano? Cosa ti porta a emigrare per gli studi? Principalmente per il tipo di moda che viene insegnata in Inghilterra, molto più creativa, molto più artistica, molto meno a design, ma più moda concettuale. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Che giudizio dai a posteriori dell'esperienza di studi anglosassone? C'è chi definisce il loro sistema universitario troppo pratico, poco teorico, sei d'accordo? È molto più pratico, nel senso che ci sono 3 anni, il corso universitario sono 3 anni e non puoi superare quel tempo, per cui diciamo ti obbligano a chiudere il corso in tempo e quindi a laurearti nei tempi stabiliti. Questo è importante. Ti laurei nel 2011, inizia la prima delle tue 2 vite professionali. La tua scelta per avviarla ricade su Londra. Perché la capitale britannica e non Milano, capitale italiana, anche europea della moda? Londra perché innanzitutto ti offre una quantità infinita di stimoli che a Milano non ci sono. A livello di imprenditoria, tu hai la possibilità di accedere a una serie di workshop, a una serie di sistemi di supporto per startups che ti formano a capire come gestire la tua compagnia, come fare il tuo startups. È importante, ci arriviamo tra poco. Londra è una piazza competitiva, a volte anche un po' spietata, lo dimostra subito, anche perché le prime esperienze al lavoro non vieni pagata, così capisci, devi dare una sterzata alla tua carriera, cambi solo temporaneamente strada, accetti un posto da manager in un negozio, uno dei più rinomati a Londra nel settore delle stoffe, e qui cambia anche la tua vita, perché i clienti non solo vengono ad acquistare stoffe in questo negozio, ma ti accorgi che cercano anche qualcuno che confezioni loro i vestiti. Cosa proponi loro dunque? Mi offro per aiutarli, e da qui comincio a lavorare praticamente di notte dopo il mio lavoro di giorno al negozio. 14 ore di lavoro al giorno, non poche. I sacrifici alla fine pagano, ma la fatica all'inizio è tanta, anche perché Londra non regala, ricordiamolo, mai nulla. In quel periodo lavori tanto a cucire vestiti per clienti privati e al petto riesci anche ad appuntarti una medaglia olimpica. Cosa succede nel 2012, in breve? Nel 2012 faccio parte del team che realizza tutti i costumi della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra. Delle Olimpiadi, infatti, una bella esperienza, e tra le altre soddisfazioni che ti togli c'è la creazione di capi che vengono indossati da alcuni artisti nei programmi della BBC. La vera svolta arriva a inizio 2013, quando decidi di licenziarti e dedicarti solo alla carriera di designer freelance. Cosa ti convince a fare questo salto? Principalmente il feedback che ricevo dai miei clienti, perché tutti mi dicono: Nicole, i tuoi pezzi sono fantastici, devi assolutamente cercare di avere la tua linea. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Micola Ragni, 28enne stilista e designer che ha creato una propria linea di moda a Londra. Fondamentali per Micola gli studi nella capitale britannica, dove, nonostante un inizio lavorativo difficile, riesce in breve tempo a sfruttare il proprio talento e cogliere le migliori opportunità per avviare una propria startup. E ora, nonostante la strada sia ancora tutta in salita, cominciano ad arrivare anche le prime soddisfazioni. Riprendiamo l'ascolto. Giovani Talenti. Se hai talento, essere semplicemente una designer freelance può risultare forse un po' riduttivo, così cominci a pensare a una tua impresa, per quanto piccola. E qui torniamo al discorso che facevi prima, quello dell'ecosistema delle promozioni di startup a Londra. Quanto ti è stato utile nel concreto? Nel concreto è stato essenziale, perché come giovane imprenditrice che ha studiato moda all'università, tu non viene data nessuna nozione a livello di gestire un'azienda, quindi fare un workshop a Londra che ti spiega come cominciare il tuo business è assolutamente basilare, essenziale. E qui c'è l'incontro decisivo con la School for Startups. Concretamente, come ti aiutano a pensare e organizzare la tua impresa? Sì, School of Startups è una viene richiesto di scrivere il tuo business plan. Questo significa che tu devi assolutamente concretizzare in una scala del tempo quello che tu pianifichi per il tuo business, e in più devi dare chiaramente i dettagli economici di quello di cui tu hai bisogno. Però sono stati decisivi, ecco, nel concreto, poi senza di loro ce l'avresti fatta? Non è stato decisivo, però è stato sicuramente la spinta iniziale che mi ha aiutato a comprare, per esempio, le macchine da cucire, le cose essenziali per partire. A 26 anni ti trovi a scrivere il tuo primo business plan, nei mesi successivi parti con la tua linea creativa. Attualmente qual è lo stato delle cose? Quali soddisfazioni sei anche riuscita a toglierti? Sono già in un paio di negozi che sono rinomati a livello internazionale per avere più marchi più raffinati. Quindi avere i miei capi in questi negozi è per me la più grande soddisfazione. Assolutamente. Torniamo ora all'inizio della nostra chiacchierata. L'Italia qualche delusione professionale te l'ha data. Un caso su tutti è emblematico, quando ti trovi a interagire con un'azienda italiana, scoprendo come essere giovane e indipendente nella penisola venga considerato un po' un fastidio più che un'opportunità. In brevissimo ci racconti cosa è successo? Praticamente io mi sono rivolta a un'azienda per realizzare le mie etichette di tessuto da mettere nei capi. Ci ho provato per un paio di volte, sono andata personalmente in azienda a presentarmi e a chiedere quello che mi serviva, e loro mi hanno fatto aspettare per un paio di mesi, facendomi pensare che sicuramente mi avrebbe aiutato. Poi all'ultimo momento, senza dire niente, mi hanno lasciato per strada e non hanno realizzato le etichette. E qui torniamo appunto al discorso dell'aiutare i giovani italiani a farcela, no? Anche i giovani promettenti, coloro che sono all'inizio, cosa forse un po' manca ancora come mentalità in Italia. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Una proposta concreta da cui ripartire? Secondo me l'Italia è un paese che ha tantissime risorse, che in cui ci sono possibilità, solo che non viene lasciato spazio ai giovani e non viene capito che i giovani comunque hanno diversi bisogni. Ci raggiunge ora in linea Elia Francinella, stilista e collega di Micole, che a differenza di lei però lavora in Italia. Elia, ti chiedo subito, perché hai scelto anche tu la moda come settore di lavoro e creazione? Buon pomeriggio. Tutti. Praticamente io fin da piccolo ho respirato nel laboratorio di mia zia, quella che è la moda. Noi siamo cresciuti, io e i miei cugini siamo cresciuti dentro al laboratorio. Quindi poi diciamo che da grande ho solo dato sfogo a quello che inconsciamente avevo appreso durante la mia crescita. Studi design, segue uno stage in uno studio stilistico prima della decisione di lavorare come product designer. Domanda secca, perché hai scelto di restare in Italia a differenza di Micole? Ho scelto di restare in Italia perché ho l'aiuto, il supporto dei miei genitori, di tutta la famiglia, ma oltre che a livello proprio pratico, anche a livello concettuale. Viene un po' spontanea la domanda, se non ci fosse stato questo supporto sarebbe stato facile rimanere in Italia o avresti guardato più fuori? Non lo so, non so risponderti in realtà, però io comunque credo molto nel Made in Italy, credo molto nel fatto che la tenacia che noi abbiamo dentro ci porti in qualsiasi parte del mondo ad arrivare al risultato. Avvii il tuo personale progetto Mavranima, spero di pronunciarlo come Mavranima, sì. Mavranima. Tre anni fa. Qual è l'idea alla base? L'idea alla base è la rivisitazione dei clergymen, ossia la divisa clericale, quindi rivisitare questo collo bianco stampandoci su delle grafiche richiamanti appunto i sette vizi capitali. C'è un po' di provocazione, se vogliamo, anche. Sì, in realtà sì. Abbiamo ascoltato da Micole quanto sia sviluppato e incoraggiante l'ecosistema londinese per quei giovani che intendono fare impresa. Hai osservato condizioni simili anche in Italia? Si sta muovendo qualcosa? Mi sono trasferito a Milano successivamente all'apertura della mia attività. Mi sono trasferito per 2 anni a Milano perché io vivo comunque come Micole, vengo da Recanati, quindi mi sono trasferito a Milano e lì sì, ho trovato un mondo completamente diverso e stimolante, che mi ha aiutato tantissimo. Milano per me è stato un trampolino europeo e per il mondo. Interessante questo asse Londra-Milano che abbiamo creato in trasmissione. Un'ultima cosa, Elia, sì. Qual è l'atteggiamento che riscontri verso chi giovane come te prova a sfondare e relazionarsi in un settore poi molto complesso e molto competitivo? È un caso, ti chiedo, che hai deciso di puntare più sull'estero che sull'Italia per le tue creazioni? L'atteggiamento comune è il coraggio, perché comunque all'inizio, in questo periodo in Italia, sappiamo tutti il malcontento generale, quindi c'è ancora qualche realtà che ci fa continuare a sperare, però comunque l'estero recepisce prima il nostro prodotto, quindi dà spazio ai giovani, sì, su questo devo dar ragione a Micole. Forse anche quelle più sperimentali, no? Sì, esatto. Elia, in bocca al lupo. Crepi. Domanda di rito per Micole Ragni: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Consiglio assolutamente vivamente di provare di trasferirsi in un altro stato. Questo non significa che una persona deve vivere e stabilirsi lì. È un'esperienza che, oltre all'imparare un'altra lingua, oltre a conoscere nuove culture, anche a livello spirituale, ti apre mentalmente a recepire le novità, una realtà diversa. Ritorna anche quest'anno un'iniziativa Giovani Talenti in Europa che ci terrà compagnia fino al 14 maggio e che da quest'anno vi chiede di immaginare la vostra Europa. Nelle prossime settimane sceglieremo 4 di voi per un viaggio a Strasburgo. Per partecipare dovete avere tra i 18 e i 35 anni ed è necessario inviare da adesso fino alla mezzanotte di domani una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. Il tema di questa settimana. Indicateci una proposta in 140 caratteri per trasformare e rinnovare il progetto Garanzia Giovani Europea, ampliandolo ulteriormente su scala continentale. Inviateci le vostre proposte con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e pubblicatele su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione, potete iscriverci solo fino alla mezzanotte di domani e nell'oggetto non dimenticate di scrivere anche la parola chiave che è Europa 1, ripeto, Europa 1. I primi 4 classificati si aggiudicheranno altrettanti viaggi di studio al Parlamento Europeo di Strasburgo. La casella per partecipare, ve la ricordo ancora, concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. Sentiamo anche come Bruno Mar- Marasà, direttore a Milano dell'ufficio dell'Europarlamento, racconta le esperienze dei nostri ascoltatori che negli ultimi anni sono partiti per Strasburgo. Noi abbiamo ricevuto ogni anno interessantissime proposte e abbiamo potuto farle discutere con i parlamentari europei qui a Strasburgo. Quest'anno ci impegniamo anche a far pervenire tutte le risposte dei nostri amici che parteciperanno al concorso di Radio 24 ai parlamentari delle rispettive regioni. Mi sembra un modo concreto di avvicinare i giovani ai loro rappresentanti in Europa. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi torniamo a occuparci di quei gruppi Facebook che fungono da veri e propri nuclei aggregatori della nostra nuova immigrazione professionale. Ce ne sono ormai di molto grandi e partecipati. Uno di questi è Italiani nel Mondo. Dario Dominin ne è il creatore. Questo gruppo è stato creato circa 3 anni fa, quasi ormai, perché su Facebook sicuramente sono tantissimi gruppi dove raggruppano un po' gli italiani nelle singole città. Per esempio qui in Belgio c'è un gruppo che è anche molto famoso, si chiama Italiani a Bruxelles. Poi abbiamo avuto più o meno l'idea di avere, ok, meglio raggruppare, cioè cerchiamo un po' di raggruppare gli italiani che sono un po' sparsi nel mondo. E quindi abbiamo creato questa idea, che alla fine è partita tutto come un gioco. Però poi pian pianino siamo accorti che molta gente aderiva al gruppo, cominciava a chiedere informazioni del tipo boh, come si sta in quella città, come si vive, quali sono i costi. E quindi diciamo abbiamo cercato un po' di raggruppare un po' gli aspetti fondamentali di un italiano che tra virgolette vuole andare a vivere all'estero. Quanti italiani avete raggruppato in questi 3 anni? In questi 3 anni adesso siamo a 18.000 amici che sono nel gruppo. E dove vivono più o meno? Ma un po' dappertutto. Abbiamo sia gente che è ancora in Italia, che chiaramente cerca un po' di informazioni per andare all'estero, e poi sono gente che, abbiamo gente dall'Olanda, dal Belgio, anche gente in Australia, anche in America, un po' dappertutto. Diciamo che le nazioni sono un po' su tutti i continenti. Qual è il profilo medio? Sono giovani o non solo? Direi età media, penso siamo sui 35-40. Perché sono emigrati? Perché poi il tema fondamentale è questa nuova emigrazione professionale. Ti ritrovi in questa definizione pensando agli aderenti al vostro gruppo? Cioè sono effettivamente giovani che hanno cercato all'estero migliori opportunità? Sì, sicuramente. Non dico quotidianamente, abbiamo sempre qualcuno che del tipo cerca: mi piacerebbe andare a vivere all'estero, cosa mi consigliate? O questo profilo, quindi quale potrebbe essere il paese che mi potrebbe offrire questa possibilità? C'è molta gente, tra virgolette, vuole cercare. Alcuni vogliono cercare una svolta, nel senso, in Italia la situazione è quella che è, quindi mi piacerebbe cercare all'estero. Oppure altra gente dice semplicemente: io sto bene in Italia, però vorrei fare una nuova esperienza, un'esperienza all'estero. Quali sono i temi che vanno per la maggiore all'interno del gruppo? Quali tipi di lavoro magari un determinato paese può offrire? Gli altri temi principali sono quelli lì. Per maggiori informazioni potete cliccare sul gruppo Facebook Italiani nel Mondo. Un motivo per restare o tornare. Parte la nuova tornata di reclutamento per il rientro dei cervelli in fuga nelle università italiane. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando 2015 del programma Rita Levi Montalcini per l'assunzione a tempo determinato di 24 giovani ricercatori italiani o stranieri impegnati da almeno 3 anni all'estero. Possono presentare domande ricercatori in possesso di un titolo di dottorato conseguito tra il 2009 e il 2012 che risultino impegnati da non meno di un triennio in attività di didattica o di ricerca postdottorale presso università ed enti di ricerca stranieri. Il termine per le candidature è il primo di aprile. Tutte le info su cervelli.cineca.it. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti o nella pagina Giovani Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese su Twitter è Giovani Talenti UE. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda alla discussione di marzo. Siete contro esodati in Italia? Avete ancora dubbi su quali benefici fiscali si applichino, se quelli della vecchia legge 238/10 o quelli della nuova normativa? Vedete ancora una enorme confusione e non sapete come orientarvi? Beh, mandateci le vostre email, le vostre domande e le vostre riflessioni. A fine marzo proveremo a darvi una risposta. Scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi giovanitalenti@radio24.it.